azzurro spazio, guardai profondo e ai prati colmi di viole pioveva loro il sole e folgorava d'oro il mondo, pareva la terra un immane tesoro e a lei serviva di scrigna il firmamento. Su dalla terra alla mia fronte veniva una carezza viva. D'amore pregar, varcai d'una chiesa la soglia, là un prete nelle nicchie dei santi e della Vergine accumulava doni. E al sordo orecchio un tremolo vegliardo, in van chiedeva pane, in van stendeva la mano. Varcai degli abitori l'uscio, un uom vi calunniava bestemmiando il suolo che l'erario appena sazia e contro Dio scagliava e contro gli uomini le lacrime dei figli. In cotanta miseria la patrizia prole che fa sull'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà. Un Dio guardato a voi siccome un angelo e dissi ecco la bellezza della vita, ma poi alle vostre parole un novello dolor ma colto in pieno petto. Oh giovinezza bella, d'un poeta non disprezzate il dè.